Il caso Gregoretti con gli show e i controshow in Parlamento e la riforma della prescrizione sulla quale, strano non c'è ancora accordo, pare, nemmeno tra PD e 5 Stelle. Siamo ancora là con la politica imballata a discutere di giustizia e dei suoi rapporti con la giustizia e un po' di grandi questioni che restano sullo sfondo. Ilva, per la quale la nuova scadenza, dicono i commissari, è il 29 febbraio, Alitalia e ora anche Ritali, sui cui destini non ci si riesce a capire molto, il coronavirus, anzi Covid-19, che in Cina arriva a far contare 1.350 vittime, ma anche rischia di azzoppare grandi appuntamenti internazionali come la settimana della moda milanese che si apre martedì, dare un colpo al turismo e creare più di qualche problema al sistema industriale italiano, già piegato da un anno difficile, ben testimoniato dai dati. Tra le chiacchiere di giornata, l'idea dell'Erasmus Nord-Sud lanciata dalle sardine, con tutto il coté di sarcasmo che si è portata dietro. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. E buongiorno a Max da Crema che scrive: se continuano a rinviarla, la riforma della prescrizione andrà in prescrizione. Beh, in effetti. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, anche audio, la vostra voce, forza, dai, fatela sentire, Filippo Reggi, regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. In questo giovedì 13 febbraio, le 6:33 minuti, ci siamo. Oh, siamo anche in diretta Facebook, ma ormai lo sapete perfettamente, così come sapete perfettamente che ci trovate su Instagram, l'account è 24 Mattino. Instagram che stiamo utilizzando grazie a voi, perché vi chiediamo di raccontarci un po' con una foto la vostra mattina, quello che vedete dalla finestra, dal finestrino, la vostra colazione, l'avvio della vostra giornata, questo racconto collettivo degli ascoltatori di Radio 24, del loro risveglio. Quindi apprendiamo dai giornali oggi che questa benedetta riforma della prescrizione, per come è stata riscritta, questo lodo Conte bis, insomma, non va bene, pare, nemmeno al Partito Democratico, e quindi si doveva discutere stasera, si rinvia un'altra volta. E quindi, appunto, anche il tavolo sulla giustizia, no? Cioè, il tavolo sulla giustizia, come ci sono i tavoli su welfare e pensioni, così come ci sono i tavoli aperti al Ministero dello Sviluppo Economico. Per fare un tavolo ci vuol Di Maio, e con Di Maio anche Zingaretti, poi ci vorrebbe anche Bonafede, e anche Conte, ma se manca Renzi non si fa più il tavolo. Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno. E voilà, momento falegnameria, la moltiplicazione dei tavoli della maggioranza e del governo. Ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole. Cara Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente in Italia di politico.eu, come stai? Buongiorno, bentornata. Buongiorno a tutti. Sì, complimenti per lo stacchetto musicale. Grazie, ma dobbiamo ringraziare l'ascoltatore, anzi, se avete idee musicali mandatecele via WhatsApp audio. Massimo De Manzoni, condirettore della Verità, ciao Massimo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci qua, allora, la giornata di ieri, però gli ascoltatori lo sanno benissimo, dal punto di vista politico è stata caratterizzata dalla vicenda di Nave Gregoretti. Nave Gregoretti, che lo ricorderete, era una nave della Guardia Costiera che aveva raccolto dei migranti, era rimasta ferma per 3 giorni in attesa appunto che fosse consentito a questi migranti di sbarcare. Per questo motivo Matteo Salvini è indagato per sequestro di persone. Il Tribunale dei Ministri, che cos'è il Tribunale dei Ministri? Perché poi a volte gli ascoltatori queste cose nemmeno le sanno. Insomma, il Tribunale dei Ministri è un gruppo di 3 magistrati di una procura che vengono chiamati a turno periodicamente a occuparsi dei casi nei quali appunto siano coinvolti dei ministri. Il Tribunale dei Ministri ha chiesto l'autorizzazione a procedere alla Camera di riferimento di Matteo Salvini, che nella fattispecie è il Senato. La Giunta per le autorizzazioni aveva già dato il via libera e ieri ha dato il via libera l'Aula del Senato. Questo non vuol dire necessariamente che andrà a processo, perché le cose sono comunque nelle mani della procura, presumibilmente andrà davanti a un giudice per l'udienza preliminare e là poi si deciderà se andrà effettivamente a processo oppure no. Comunque, ieri la grande scena, il grande show al Senato su questa vicenda, che è stata l'occasione di propaganda e contropropaganda, come sempre in questi casi. Matteo Salvini, dunque, lo faccio per i miei figli. Si parla di un processo, non si parla di una passeggiata. E io lo faccio e dico quello che dico, e interverrò sul piano giuridico e poi sul piano politico e umano, per rispetto nei confronti della carica che ho avuto l'onore di ricoprire, degli italiani e dei miei 2 figli che vanno a scuola, che hanno il diritto di ritenere che il loro papà sia spesso lontano da casa, non perché passa il tempo a sequestrare esseri umani, ma perché difendere i confini e la sicurezza del suo paese era un suo preciso dovere. E qua apriti cielo con urla dai banchi dell'opposizione e piantala con questi figli, chiedono alla presidente Casellati di fermarlo, smettila per favore. Vabbè, dice ancora Salvini, finirà con un'archiviazione. E poi... Ho difeso la patria, ci deve essere il processo. Marcucci del PD. Noi vogliamo che l'Italia e gli italiani sappiano la verità, sappiano se lui è stato conseguente ai suoi doveri d'ufficio e ha rispettato il codice penale o meno. La magistratura faccia il suo corso, decida. Noi oggi non diamo una sentenza, diamo solo la possibilità di definire la verità. Su questa vicenda, caro Massimo De Manzoni, posso solo immaginare come la pensiate voi là alla verità, insomma. Beh, l'abbiamo scritto, per cui è facile saperlo, insomma. Oggi facciamo un gioco, perché le cose poi vanno anche viste, cioè il modo migliore per capire fino in fondo che cosa è successo è portarlo alle estreme conseguenze. Noi abbiamo applicato ad altri premier o ministri di questo e di governi passati lo stesso criterio, scoprendo che potremmo incriminare Amato per furto con destrezza per l'incursione nei conti correnti degli italiani, che potremmo incriminare Speranza per interruzione del pubblico servizio per aver chiuso i voli di Dai per la Cina, e anche di sequestro di persone, perché le persone... Quelli in quarantena, basta che uno di loro protesti e siamo a posto, c'è un altro sequestro di persone e così via, possiamo andare avanti con Prodi accusato di naufragio, strage, omissione di soccorso, perché sotto la sua presidenza venne affondato un barcone addirittura, altro che quando ci fu la crisi in Albania, insomma. Il paradosso che dimostra quanto sia assurdo quello che è successo, come giustamente dicevi, è stato strumentalizzato da tutti, anche da Salvini, sì, che a mio avviso ha sbagliato. Io sono per la linea buongiorno. Un'abdicazione di questo tipo cioè rimettere nelle mani dei magistrati anche la valutazione di atti squisitamente politici come... Sì. Cioè doveva dire no, questo. Doveva dire no la Lega, doveva dire no all'autorizzazione a sì, procedere, poi, poi no? Non sarebbe cambiato nulla, però perché la posizione... siamo di fronte ai 5 Stelle e con i 5 Stelle cioè, è ovvio che ogni discorso logico poi va da pallino e quindi non ci sarebbe stata possibilità. Però dal punto di vista così dialettico, diciamo così, e anche dal punto di vista del principio, visto che ogni tanto parliamo di principi, anzi ne parla spesso anche Renzi, di quale gli tira fuori quando fanno comodo a lui e quando riguardano lui. Poi ieri ha liquidato tutto con una battuta, ha detto io non vedo il reato. Ma se vuole essere processato lo accontento. Lo accontento, gli do una mano. Sì, anche, sì. Questa questa è una cosa curiosa. Silvia, anche secondo te ha sbagliato Salvini politicamente? Ma Salvini forse politicamente in un certo senso ha fatto bene, perché questo potrebbe anche diventare un modo per, tra virgolette, farli riprendere il centro della scena, cioè dopo la batosta dell'Emilia Romagna, adesso tutti i sondaggi dicono la Lega in calo, comunque è relegato all'opposizione, un processo con Salvini che diventa o assurge a eroe della patria, che ha difeso i confini nazionali con i magistrati e le opposizioni che lo vogliono a processo per sequestro di persona, potrebbe essere un modo per tornare a battere di nuovo su qualcosa di importante per i cittadini italiani e su qualcosa che la Lega ha sempre cavalcato. Detto questo, sono molto perplessa dal comportamento della maggioranza e soprattutto dei 5 Stelle, che nel caso della Diciotti, che forse avrà delle differenze, ma poi nel caso della Diciotti c'era anche un aggravante che in questo caso non c'è, l'hanno difeso, hanno parlato di decisione collegiale, questa volta magicamente è una decisione che Salvini ha preso da solo per interesse personale, per farsi propaganda politica. Insomma, mi sembra anche questa una decisione molto politica e mi sembra un comportamento abbastanza curioso da parte di parte dell'attuale maggioranza. Sì, sì, cioè, ce n'è parecchio di opportunismo da una parte e dall'altra. Un ascoltatore scrive: Salvini martire, non so se lo dica perché lo pensa o perché ci voglia dare una lettura politica, però è presumibile che la campagna elettorale per le prossime regionali vedrà parecchio, e lo raccontano un po' i giornali oggi, lo trovate in qualcuno dei famosi retroscena. Trovate questa storia di Salvini che si preparerebbe appunto a presentarsi come martire in campagna elettorale. Sono ironico, ci conferma l'ascoltatore, quindi va bene così. Che altro? Rimaniamo un attimo sul tema, sentiamo anche Emma Bonino, va. Perché per 6 giorni lo sbarco non è stato rallentato, come detto da qualcuno, ma concretamente impedito. È condizionato all'accordo di altri paesi europei. Quindi sono stati usati marinai italiani e profughi come leva di pressione per un obiettivo politico. Si segnala anche in tutto ciò, la butto là perché è un tema che comunque ricorre. Si segnala che ieri è arrivata anche Giorgia Meloni in Senato, ovviamente non dai banchi, è deputata, quindi insomma da sopra lo guardava dai banchi di chi può assistere a queste sedute. Ha portato una solidarietà che mi è sembrata una solidarietà abbastanza formale, tutto sommato. La testimonianza è forse tra gli alleati non corre ottimo sangue. Traffico. Siamo nella testa di un professionista. A sinistra il problema dell'anticipo. Sottraendo la rata, la radice quadrata del budget totale, moltiplicando per il tasso dell'interesse. A destra è facilissimo, l'anticipo è uguale alla rata. Con Volkswagen Veicoli Commerciali la formula è semplice. Fino al 29 febbraio, caddy furgone è tuo con leasing finanziario e anticipo uguale alla rata. Da 169 euro oltre IVA per 59 mesi. TAN 249, TAG 397 per aziende e partita IVA. Info su volkswagenveicolicommerciali.it. L'idea in più per chi lavora. Mattino. E poi sì, c'è lo scontro sulla prescrizione. Mamma mia, ragazzi, non se ne può più, non se ne può più. va bene. Ah, sì, per carità, è una questione che mette in gioco i diritti degli imputati, ha a che fare con la nostra civiltà giuridica, siamo perfettamente d'accordo, ma in qualche modo, ragazzi, uscitene, uscitene. Perché poi succede questo, succede, chi ha ascoltato ieri la trasmissione, sa che a quest'ora, ieri, alle 6.47, abbiamo intervistato un sindacalista dei trasporti della CGIL, quello che si occupa di trasporto aereo, e che ci ha detto, guardate che noi è un anno che diciamo al governo, occhio che Air Italy crolla, è un anno che lo diciamo. L'abbiamo segnalato ai tempi del governo giallo-verde, lo abbiamo segnalato adesso ai tempi di questo governo rosso-giallo o comunque sia. E poi però ci ritroviamo col ministro Patuanelli che dichiara questo. Qualche segnale c'era di tensione all'interno della proprietà, ma certamente non ci aspettavamo una messa in liquidazione da un giorno all'altro. Questo è stato, oggi si è svolto un primo incontro al MIT, che ovviamente è il Ministero Vigilante del Sistema del Trasporto Aereo, quindi era normale che si svolgesse lì. Abbiamo manifestato l'irritazione, come lei ha citato, qui però il problema non è l'irritazione, è trovare una soluzione. Io non lo so, insomma, ecco, poi magari me la prendo troppo su queste cose, però insomma... Così è. Patuanelli che dice per me la TAV è un'opera inutile. L'ho sempre detto, ho cercato di basare la mia posizione di contrarietà a quell'opera su base tecnica, perché i trasporti non sono una filosofia ma sono una scienza, e quindi ritengo e ribadisco che per me quell'opera è inutile. Dopodiché è un processo attivato credo 20 anni fa, forse più, perché penso sia nel 91 la prima idea di TAV. E quindi mi rendo anche conto che, come posso dire, essendo arrivati al momento in cui si era iniziata l'opera, anche se non il tunnel di base, bloccarlo è stato impossibile. Silvia Cerilli Borelli, mi pare discretamente imballato il governo, Ma tanto questo è un po' ormai... Il modo di operare a cui dobbiamo abituarci, io credo, no? Poi al di là della maggioranza, finché ci sono queste coalizioni litigiose, non credo che ci siano prospettive molto diverse. Il fatto della prescrizione, come dicevi, è sfiancante, più che altro perché appunto ciascuno avrà le proprie ragioni, ma insomma si poteva trovare una mediazione per evitare il teatrino che sta andando in scena, e poi insomma troveranno tra di loro un accordo, ma insomma passiamo a parlare di altro, perché comunque tra l'impatto economico del coronavirus, oggi ci sono le previsioni d'inverno della Commissione Europea, già, ci sono le crisi aziendali, continuiamo a parlare di cose che secondo me quando i cittadini le sentono, sì, poi dicono in generale di essere d'accordo con la riforma buona fede, ma mi sembra che solo il 5% sa di cosa si tratti nel dettaglio, quindi a un certo punto davvero diventa faticoso, e questa maggioranza mi sembra ancora più litigiosa di quella precedente. Massimo De Manzoni, anche tu hai questa impressione, no? Perché un po' l'idea... No, non è un'impressione, una certezza, lo vedono tutte. Il collega ha detto una cosa giustissima, cioè che queste coalizioni, questi liti continui paralizzano un'azione di governo, ma se un governo non governa, dobbiamo tenercelo solo perché altrimenti rischia di governare qualcun altro? Cioè, io a questo punto mi chiedo quali siano le responsabilità anche del Presidente della Repubblica in una situazione come questa. È palese che non sono in grado di fare niente, e purtroppo in una situazione che non è che si governi da sola e che quindi le cose stiano andando discretamente e quindi basta non fare troppi danni. Qui abbiamo una frenata della produzione industriale che non si vedeva da anni e anni e anni. Non abbiamo mai avuto una grande ripresa dopo la grande crisi, ma adesso stiamo andando in recessione addirittura. Ci sono appunto, come si diceva, non si risolve un tavolo aziendale, che sia uno, anzi si fanno sorprendere da qualsiasi cosa succeda. L'ultima è appunto Air Italy, ma è perché gli italiani devono essere condannati a questa situazione? Non si può andare, come in tutti i paesi civili del mondo, alle urne a cercare di trovare una maggioranza che sia un attimo più coesa, abbia una visione di paese e provi a fare delle cose. Io questo continuo a non capire. Ci scrive un ascoltatore, mi scrive: adesso un governo dovrebbe curarsi di ogni compagnia che fallisce, che stiamo in Venezuela. No, ma non è un ragionamento di statalizzare, non statalizzare, eccetera, eccetera. È semplicemente di essere a conoscenza delle cose, perché da un momento all'altro tu ti ritrovi con l'interruzione dei collegamenti tra il continente e il nord della Sardegna, tanto per fare un esempio, che è una cosa rilevante non solo per i sardi, ma anche per il settore turistico e per la Sardegna, conta tantissimo. E poi fare da elemento di mediazione, come sempre il governo fa nei tavoli di crisi, cioè è molto semplice, non è che si tratta semplicemente, non è che si tratta di intervenire, si tratta di essere a conoscenza delle cose o attivarsi prima che avvengano. Oh, ieri mi è venuta in mente questa cosa, forse un po' troppo cattiva, chissà poi che non si offenda, che mai, se mai fosse all'ascolto, non si offenda il professor Prodi, però mi è venuta in mente questa vecchia imitazione di qualche anno fa, forse qualcuno la ricorderà, di Corrado Guzzanti che fa Romano Prodi. A proposito del governo mi è venuta in mente, sentiamo. Le devo confessare, sì, che già da ragazzo, quando cominciavo a fare la politica, un simbolo più di altri mi aveva colpito e ispirato. Quale? Il semaforo. Il semaforo? Il semaforo. Sotto il semaforo tutte le macchine corrono, han fretta, devono andare, devono scappare, fanno le corna al finestrino, si agitano, si muovono e lui fermo, tranquillo, governa in mezzo alla strada, la situazione è sotto controllo, capito. Nessuno la muove, immobile, il semaforo. Ma la lucina verde, ma rossa, non si muove. Non si muove, il semaforo, beh, grande Guzzanti, ci manca un po', ci manca, che non lo vediamo in televisione. Vabbè, guardate, non entro nemmeno sulla vicenda delle sardine e dell'Erasmus Nord-Sud, perché insomma le stesse sardine hanno detto siamo stati strumentalizzati, però sono usciti là dall'incontro provenzano dicendo facciamo questo Erasmus Nord-Sud. E pensavo ai romani, chissà se vale anche, che ne so, tra Trionfale e l'Eur, per esempio, Cioè, se vai all'Eur da Trionfale vale Erasmus o ti sei fatto solo un'ora e mezza di traffico? Chiudiamo con Elly Schlein, neo vicepresidente della regione Lombardia, della regione Emilia-Romagna, ciao, che insomma non lo fanno tutti i politici, quindi va dato atto al coraggio il coming out di Elly Schlein. L'ho chiesto anche a Mattia Santori, per farmi un po' i fatti suoi. Lei è fidanzata? Allora, io premetto che di solito non parlo mai, sono molto riservata sulla mia vita personale, però qui non posso, non faccio un'eccezione. Sì, sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato, ho amato molti uomini, ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice finché mi sopporta. Niente male. C'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa. Grazie a Massimo Di Manzoni, condirettore della Verità, Silvia Cioreli Borrelli, corrispondente in Italia di politico.eu. E parleremo anche di Alitalia, ce ne sono di notizie oggi.